segniamo le lettere di action a Pegorano Scania e a Bertinotti. Iniziamo a entrare nel merito di questa serata. Allora io ho il compito un po' di fare il balletto della situazione, per cui metterò soltanto alcuni elementi a disposizione del dibattito. Facendo un passo indietro, l'abbiamo visto dal filmato, parliamo di qualcosa che è veramente drammatico dentro questa città, l'emergenza abitativa. Noi abbiamo scritto sul manifesto che la consideriamo un bene comune, cioè un bene inalienabile, un diritto inalienabile, e ci siamo posti il problema di come questo bene va tutelato. In assenza di una legislazione, in questo momento esistente in Italia, che lo tuteli, le famiglie, organizzate o meno, se lo stanno difendendo da soli. Chi occupa, chi si difende negli sfratti, però spesso questo produce dei problemi, produce denunce, produce rischi molto alti come quello che si è corso nella resistenza organizzata a Castrezze, fino ad arrivare a produrre un mostro giuridico come quello dell'associazione delinquere di confusione. Quando abbiamo pensato questo dibattito, pensavamo di essere veramente sotto tiro, non che adesso contiamo di meno, però pensavamo che far stringere intorno a noi e capirci su come tutelare questo diritto inalienabile, che è il diritto all'abitare, le forze della sinistra alternativa e possibilmente anche forze della sinistra tout-court, fosse la cosa più importante. La situazione, fortunatamente, grazie alla resistenza messa in piedi a Castrezze, ha avuto una svolta rilevante. Oggi è iniziata in Consiglio Comunale la discussione sulla delibera, per cui ci sono segni importanti di risposta alle mobilitazioni. Però rimane un fatto: intanto la situazione a delinquere è in piedi e cala sulla testa di molti dei compagni e delle compagne che sono impegnati in prima fila nella lotta per il diritto all'abitazione. E il 23 ci sarà il tribunale del riesame che deciderà per l'arresto per 7 giorni. L'altra questione che è sul tappeto quest'oggi è che tutto questo avviene perché nel momento in cui si tende a tutelare il diritto all'abitare si lede un diritto, il diritto della proprietà privata. Allora, un'altra domanda sulla quale bisogna chiarirci, anche per prendere delle iniziative conseguenti, è quanto la proprietà deve fare un passo indietro rispetto al meccanismo mostruoso che ha messo in piedi con un mercato degli affitti innalzato a livelli inverosimili e una impossibilità assoluta di avvicinarsi anche per le famiglie di ceto medio oramai, si trovano a che fare con affitti che si aggirano intorno ai 1000 euro quando lo stipendio è su quelle somme. Per cui quanto la proprietà deve fare un passo indietro, o se invece il diritto a tutelare la proprietà è talmente forte in questo paese che chi deve fare un passo indietro è chi lotta, e per cui le associazioni a delinquere e tutte le forme di repressione che ci verranno addosso ce le dobbiamo tenere, o se invece è possibile mettere in piedi un meccanismo che costringa dentro questo paese la proprietà a fare i conti con un diritto che è inalienabile, che è il diritto all'abitare, attraverso iniziative forti, non attraverso un parlarsi così. Noi pensiamo che rispetto alla proprietà noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, facciamo i picchetti al sistratto, però l'amministrazione e le forze politiche devono essere ancora più forti, devono fare atti concreti, arrivare a fare requisizioni, blocchi degli sfratti, blocchi degli sgomberi, cioè atti giuridici coraggiosi che però invertano la tendenza e costringano la proprietà privata a tenere conto che in questo paese sta uscendo fuori un punto di vista che è pronto a misurarsi con loro su in difesa di un diritto che invece è il diritto degli ultimi, il diritto di chi non ce la fa a pagare l'affitto, e questo è valido quanto per il diritto all'abitare, quanto per il diritto al reddito, quanto per altri diritti che noi mettiamo in campo. Queste sono un po' le cose sulle quali mi auguro che oggi riusciamo a ragionare senza sfuggire anche sul linguaggio e sulla forma, cioè non è soltanto qua in sostanza. Aver impedito sostanzialmente che lo sgombero fosse effettuato a Castrezze è perché la forma ha avuto la sua importanza, e credo che anche su questo bisogna esprimersi. Grazie. Maura Cossutta non sarà qui con noi perché sta facendo la campagna del referendum sulla PMA, è a Pisa, non è a Roma, per cui si scusa per non essere presente qui. Io adesso do la parola a Fabrizio Lizzi di Action, però spero che prenda la parola oggi, oltre a chi si trova qui e che è stato invitato per questo, anche chi tutti i giorni resiste per rimanere dentro la propria porta. E chi ogni giorno resiste dentro le occupazioni, che non sia soltanto un incontro tra teste di rilievo, ma che sia anche un incontro con chi agisce la lotta ogni giorno e si difende con la lotta all'affidare con una vita in proroga pesantissima da sopportare.